Io sono fiero di essere parte di questa chiesa. Ho il meraviglioso privilegio di vivere queste esperienze con tutti voi e il meglio è davanti a noi. Amen. Come chiesa stiamo sperimentando una stagione meravigliosa, ma quello che ci sta davanti è ancora più grande, perché abbiamo un Dio grande, un Dio dei miracoli, un Dio che si vuole servire di noi e non perde occasione di dirlo anche attraverso ministri a noi esterni, che siamo chiamati come chiesa a grandi cose in questa nazione. E io voglio essere parte del pieno piano, della perfetta volontà che Dio ha per ciascuno di noi, per noi come famiglia. Noi avanzeremo e noi vedremo il regno di Dio avanzare in questa nazione. Amen? Se ci credi, di amen. Se ci credi, di un amen più forte. Ah, bene, bene. Vi voglio leggere qualche feedback da alcuni pastori. Non so se ce li ho più in ordine perché mi sono caduti nel frattempo. Però noi a fine o a metà programma di Ecclesia abbiamo chiesto ai pastori di darci un feedback. Che cos'è il feedback? È un resoconto. Noi amiamo i feedback perché se c'è una caratteristica della nostra Chiesa è che noi vogliamo continuare a crescere, a migliorarci e ad essere modellati attraverso quelle che possono essere anche le critiche costruttive. A quanti piacciono le critiche? Tanta stima, cioè tutta la mia stima a voi. Però effettivamente è così, noi vogliamo essere una chiesa e vogliamo essere credenti individualmente interessati alle critiche, perché Dio ci corregge, ci guida e ci modella, non solo facendoci sentire la sua voce direttamente nella stanzetta quando stiamo appartati alla sua presenza, ma ci guida, ci modella e ci modifica attraverso il nostro fratello e la nostra sorella. Anche quando dice le cose in una maniera sbagliata, il Signore probabilmente si sta servendo del tuo fratello, della tua sorella, per farti notare dei difetti in te che devono cambiare. Quindi quanti amano una critica? Qualcun altro si è aggiunto. Bene, se sei parte di questa chiesa, abituati ad essere criticato in una maniera costruttiva. Ora, i feedback che voglio leggervi però non sono critiche, voglio leggere gli elogi che ci hanno fatti, anche perché nel feedback noi abbiamo chiesto di dirci cosa possiamo migliorare, cosa non ti è piaciuto, cosa cambieresti, però abbiamo raccolto tanti elogi, tanto entusiasmo, tanta gratitudine e voglio leggervela. C'è un pastore che dice: un punto di forza di questa conferenza è il vostro entusiasmo, la vostra creatività, vedere sorrisi in ogni volontario. Sorrisi in ogni volontario. Quanti di voi hanno sentito ripetutamente dire ad da Antonio sorridi quando servi? Possiamo fare un applauso ad Antonio e ringraziarlo perché ci aiuta ad essere dei mezzi e degli strumenti nelle mani di Dio per edificare pastori che sono nella nazione edificati dal nostro sorriso. Lui è entusiasta anche dei tempi di pausa e non vedo che è entusiasta del messaggio del pastore Mirko. Va bene, segniamo il nome, lo contatteremo questo pastore. Però vedete, questo ci fa riflettere. Cioè questo pastore non ha scritto la cosa più, il punto di forza di questa conferenza è stato il messaggio e la predicazione del pastore Mirko. Quanto avrei voluto che fosse stato scritto così. No, è bugia. Sono così contento invece che la Chiesa è edificata attraverso il numero dei membri che ne sono parte. Perché è biblico, in Efesini c'è scritto che la Chiesa cresce secondo il vigore di ciascun membro. Quindi posso farti un invito stasera? Sorridi di più. Amen? Fai un bel sorriso? Mostra la tua dentiera? Dio ti ama. C'è un altro pastore che dice: ho visto il più alto livello di eccellenza mai visto in Italia. Ma vi rendete conto? È incredibile. Un altro pastore che dice: il punto di forza di questa conferenza è stata la scioltezza, la naturalezza nell'essere Chiesa. è bello come feedback questo. Essere chiesa significa essere famiglia, non significa essere religiosi, non significa essere statici, non significa essere meccanici, ripetitivi, significa essere sciolti, se stessi, pieni di amore e comunicare questo amore. Questo pastore è stato edificato dalla nostra naturalezza nell'essere chiesa, nel vivere il regno e nel portarlo agli altri. Questo è esattamente quello che noi vogliamo fare come chiesa, vivere e sperimentare di più il regno e portarlo ad altri. Amen? Infatti io stasera voglio parlare del regno, avrei tanti altri feedback, lo vedete, sono tanti fogli, ma mi fermo qui. Io stasera voglio continuare il messaggio del regno di Dio, la tematica che abbiamo trattato nella conferenza, perché io di questa conferenza, se c'è qualcosa che mi porto a casa, è una rivelazione maggiore di questa tematica meravigliosa. Quindi siete pronti? Volete leggere con me la parola di Dio? Andiamo a leggere una storia meravigliosa che si trova in Matteo e che coinvolge Gesù e un soldato romano. Quindi leggiamo insieme da Matteo capitolo 8, il versetto 5. Ci siamo? Pronti? Contenti? Vi piace la Bibbia gigante che abbiamo? La riuscite a leggere tutti? Problemi di miopia? Lì dietro, qual è la prima lettera? Marco, ti vedo stringere gli occhi. 5. Giusto, non è una lettera, è un numero. Bravo Marco. Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui, pregandole dicendo: Signore, il mio servo giace in casa, paralitico e soffre moltissimo. Gesù gli disse: Io verrò e lo guarirò. Meraviglioso. Io verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anche io sono un uomo sottoposto ad altri e ho sotto di me dei soldati e dico a uno va ed egli va. A un altro vieni ed egli viene. E al mio servo fa questo ed egli lo fa. Gesù, udito questo, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: Io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. E io vi dico che molti verranno da Oriente e da Occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori, là ci sarà pianto e stridor di denti. Gesù disse al centurione: Va e ti sia fatto come hai creduto. E il servitore fu guarito in quella stessa ora. Meravigliosa, no? Come storia. Ora, noi stiamo leggendo dal Vangelo di Matteo. E il Vangelo di Matteo è una narrazione scritta dall'Evangelista Matteo. E quello che io vorrei che noi tutti comprendessimo è che ciò che noi leggiamo nella parola di Dio, nei Vangeli, non sono tutte le storie, tutti gli insegnamenti, tutte le guarigioni che Gesù ha fatto. C'è una scrematura, infatti nel Vangelo di Giovanni, l'Apostolo Giovanni ci tiene a sottolineare che se fossero narrate tutte le storie riguardanti Gesù, se fossero narrati tutti i suoi insegnamenti e tutte le guarigioni e tutte le opere potenti che lui ha fatto, non ci sarebbero libri a sufficienza per contenere tutta questa narrazione. La storia di Gesù è ricca di episodi, ricca di miracoli, ricca di storie. Quindi quando noi leggiamo la Bibbia dobbiamo comprendere che c'è stata una selezione e Matteo ha fatto un'accurata selezione e ha voluto inserire nella sua narrazione delle vicende riguardanti Gesù questa storia, la storia del centurione. Perché l'ha fatto? Noi comprendiamo che il Vangelo di Matteo è una narrazione nella quale questo evangelista ci vuole far capire determinate cose che sono essenziali, fondamentali. La prima fra tutte, chi è Gesù? Noi lo comprendiamo proprio dai primi versetti del primo capitolo di Matteo, che Matteo scrive la genealogia di Gesù. Che cos'è la genealogia? È proprio tutta la descrizione di tutto l'albero genealogico di chi era padre di chi, per farci comprendere che Gesù è è parte della genealogia del re Davide. Quindi noi comprendiamo già questa primissima cosa, che ci viene presentata la nascita di Gesù non come la nascita di un profeta qualunque, non come un grande uomo che ha fatto grossi cambiamenti, ma come la diretta discendenza del re Davide. E poi noi leggiamo, andando avanti, vi ricordate la storia dei magi d'Oriente, i magi d'Oriente che arrivano a Gerusalemme seguendo una stella e chiedono nella città di Gerusalemme queste esatte parole, ve le voglio leggere. I magi d'Oriente chiedono: dov'è il re dei Giudei che è nato? E sapete cosa c'è scritto successivamente? C'è scritto che l'intera città entrò in confusione e in tumulto. Il re Erode fermò e chiamò a sé i religiosi, i farisei, il sacerdote, per sapere dove doveva nascere questo re dei Giudei preannunciato nel Vecchio Testamento. E così i religiosi dicono al re Erode: nascerà a Betlemme. Sapete il re Erode che cosa ha fatto? Ha esterminato tutti i bambini al di sotto dei 2 anni perché si è sentito minacciato dalla nascita di un nuovo re. Noi comprendiamo proprio dal primissimo capitolo, quindi, che ci viene presentata la nascita e un nuovo regno e un nuovo re, Cristo Gesù. Poi l'uomo Gesù, il figlio di Dio, cresce e comincia a insegnare, comincia a raccontare storie, parabole, tutte che hanno a che fare con il regno di Dio. Avete mai notato quante volte, soprattutto nel Vangelo di Matteo si nota questo, è ripetuto il regno di Dio, il regno dei cieli. Gesù lo insegna, lo racconta in parabole, ci invita a cercarlo, ci insegna una preghiera nella quale dobbiamo pregare affinché il suo regno venga. Quindi da qui capiamo che questa tematica non è secondaria, anzi è principale, è prioritaria, è qualcosa di fondamentale. Amici, fratelli e sorelle, noi è importante che comprendiamo bene che cosa sia il regno di Dio, perché è qualcosa di importante per Cristo, perché definisce la motivazione per la quale Lui è venuto e, fino a prova contraria, Gesù è il re promesso nel Vecchio Testamento. Infatti il Vangelo di Matteo è il più ricco in citazioni vecchio testamentarie. Il Vangelo di Matteo fa riferimenti costanti ai profeti, al Vecchio Testamento. Ci siete ancora? Mi state seguendo? Vi sto annoiando, no? Spero di no. Il Vangelo di Matteo fa queste citazioni perché? Perché vuole farci comprendere che Gesù è il re, il liberatore, il salvatore, colui che doveva venire e che è venuto per stabilire il regno di Dio. E poi c'è questo sermone sul monte, meraviglioso, una predica lunga dove il re Gesù, che è un re che non è vestito di vesti sontuose, che non è seduto su un trono come il re Erode, ma nella sua semplicità è un re che raggiunge i cuori, che cambia vite, che trasforma circostanze. Questo re insegna nel sermone sul monte. Il sermone sul monte si conclude con delle parole molto chiare e specifiche scritte dall'evangelista Matteo. E c'è scritto che lui insegnava non come gli altri scrivi, ma lui insegnava con un'autorità. Gesù era rivestito di un'autorità. Gesù parlava con autorità e lui non solo ha insegnato il regno di Dio, non solo l'ha narrato, l'ha raccontato, l'ha spiegato, ci ha invitato a cercarlo e a pregarlo, Gesù l'ha manifestato. E quindi poi noi entriamo in questo meraviglioso capitolo che vi invito a leggere a casa, dal quale abbiamo estrapolato questa storia, e nel capitolo 8, come anche nel capitolo 9, noi leggiamo che Gesù manifesta la potenza e l'autorità del regno di Dio, guarendo, fermando la tempesta e facendo opere miracolose. Gesù, il re, dimostra ora che ha autorità su questa terra, su ogni elemento, su ogni circostanza, su ogni malattia, su ogni persona. E io vorrei che noi riflettessimo su questa figura, il centurione, perché ha tanto da insegnarci. Il centurione ha da insegnare a noi oggi come afferrare la rivelazione del regno di Dio. Però prima di parlare del centurione, io voglio soffermarmi con voi alle prime parole della storia che abbiamo letto, perché è meraviglioso leggere in Matteo 8, versetto 7, che alla richiesta del centurione Gesù risponde con queste parole: io verrò e lo guarirò. Il centurione si presenta a Gesù con una richiesta per un suo servo che giace paralitico a casa, e la risposta di Gesù, pronta, immediata, piena di misericordia e di grazia, piena di un senso di servizio, è: io verrò e lo guarirò. Io vorrei che noi comprendessimo che questo re di cui stiamo parlando questa sera, il re Gesù, non è un re come altri, è un re che è servo e che ama servire. Infatti, nello stesso Vangelo di Matteo, al capitolo 20, dal versetto 28, lui dice, Gesù dice, il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito come ogni altro re. Non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Gesù è il re che serve. E forse questa è una parola per te questa sera. Forse devi renderti conto che quel Gesù che forse hai visto molto distante, che di cui non hai compreso l'autorità, che tu stasera possa avere rivelazione del fatto che lui è un re che ha autorità ed è anche al tempo stesso un servo, che ama servire, che ama venirti incontro, che ama sporcarsi le mani nelle tue circostanze difficili. Ed è quello che noi sperimentiamo giorno dopo giorno come Chiesa. Io ho il privilegio di sentire così tante testimonianze. La scorsa settimana, nelle scorse due settimane, persone che sono guarite, persone nelle quali la vita è cambiata perché Gesù è intervenuto sbloccando situazioni lavorative e economiche. Gesù ama intervenire perché Gesù è un re servo e a Lui piace servirci. Se c'è una persona in questa storia che avrebbe potuto dire benissimo: potrei rimanere qui e operare il miracolo di guarigione in questo servo senza spostarmi di un millimetro, quella persona era proprio Gesù. Gesù era quella persona che poteva dire: io non ho bisogno di incomodarmi, io non ho bisogno di venire in casa tua, io posso rimanere qui e con la mia parola posso guarire il servo. Non è la prima volta né l'ultima che io faccio una cosa del genere, perché in me c'è autorità di guarire anche a distanza. Ma Gesù prontamente risponde al centurione: io verrò e lo guarirò. Che parole incoraggianti. Io spero che tu le possa fare tue stasera. Gesù ti dice: io vengo e guarisco, io vengo, io sono interessato, io vengo in casa tua, io vengo a servirti, io vengo ad intervenire, io non rimango fermo, io ti amo. E alla tua richiesta, se tu vieni a me a chiedere col cuore, a chiedere con fede, io interverrò. Andiamo avanti con la storia. Il centurione, voglio farvi vedere una foto. Questo è il centurione romano. Non so quanti hanno studiato a scuola l'impero romano e quanti ricordano la figura del centurione, ma il centurione era un ufficiale romano, era un militare che aveva una carica e un'autorità, era a responsabilità e a guida, a comando di un centinaio di soldati romani, di legionali. E i legionari erano sottomessi al centurione. Il centurione aveva una particolarità: era un combattente, era un uomo che conosceva che cos'era il combattimento. Infatti, come vedete in questa foto, la particolarità dei centurioni è che prima di tutto avevano questa criniera trasversale in modo tale che i soldati anche a distanza nella battaglia riuscissero a vedere il centurione. Il centurione era quell'uomo in battaglia, quel soldato in battaglia che dava l'esempio, che era un prode guerriero, che dava l'esempio di coraggio ed era in prima fila. Non erano in ultima fila a guidare il centinaio di soldati che erano in guerra, era lì in prima fila. Infatti molto spesso i centurioni morivano in guerra. Quindi il fatto che questo centurione fosse in vita, fosse ancora stabile, è straordinario, perché significa che era un uomo che aveva un certo onore, aveva una certa statura, aveva una certa esperienza. Il centurione aveva persone sotto di sé ed era anche sottomesso, era sottomesso al tribuno e poi al prefetto, erano altre persone e c'era questa catena di comando. L'esercito romano, come ogni organizzazione che funzioni, prevede la presenza di una catena di comando. Che cos'è una catena di comando? La catena di comando prevede che c'è una comunicazione e ci sono degli ordini e dei ruoli ben specifici dove uno è sottomesso all'altro e dove ci sono dei vari gradi e delle varie stature. E quindi il centurione era a comando, a guida, in autorità, in prima fila, ma era anche sottomesso. E perché descrivo questa catena di comando? Perché il centurione, nella sua conoscenza militare della catena di comando, comprende bene come funziona il regno di Dio e ha qualcosa da insegnarci sulla visione e la rivelazione del regno di Dio. Il centurione ha capito bene che ha a che fare non con un uomo qualunque, ma con un re. Un re che è sottomesso all'autorità massima, il Padre. E sappiamo bene che è Gesù stesso che dice: non c'è nulla che io faccia che non ho vista fare al Padre, che non è il Padre a dirmi di fare. Quindi Gesù era completamente sottomesso al Padre e agiva con un'autorità su ogni cosa. Gesù era in autorità su demoni, Gesù era in autorità su infermità, Gesù era in autorità sulla tempesta, sull'atmosfera, lui era in autorità sugli elementi, sulle leggi fisiche, lui ha camminato sulle acque, ha permesso a un altro uomo di camminare sulle acque, perché Gesù è in autorità su ogni molecola, su ogni atomo, su ogni legge fisica, perché lui è il re dei re, il signore dei signori, il creatore. E il centurione l'ha capito. E il centurione si è rivolto a Gesù avendo rivelazione di come funziona il regno di Dio. Ed è per questo che con fede ha detto: Gesù, non occorre neanche che tu vieni in casa mia. Basta la tua parola, basta il tuo ordine, perché in te e nella tua bocca c'è un'autorità tale che nel momento in cui tu dichiari qualcosa, quella cosa accade. Noi abbiamo da imparare dal centurione. Abbiamo da imparare la visione del regno e la comprensione dell'autorità con la quale abbiamo a che fare. Sapete, la mia preghiera in queste ultime settimane, studiando il regno, è cambiata. E lo sto condividendo a molti. E voglio condividerlo a tutti noi. Ho cominciato a pregare diversamente, rivolgendomi a Gesù, dicendo: Re Gesù. E tutto è cambiato dal momento in cui io ho compreso che ho questa autorità su di me e io sono sottomesso a questa autorità e posso pregare a questa autorità. Tutto è cambiato anche nella mia preghiera. Ti incoraggio. So che ci piace pregare dicendo Padre, so che ci piace ad alcuni dire addirittura papà, intervieni in questo, questa terminologia familiare, e ci sta tutta, non perderla, falla tua, perché è bello essere familiari con Dio. Dio vuole che noi lo chiamiamo Padre e ci rivolgiamo a Lui come nostro papà, però per una stagione, per un periodo, prova a pregare al Re Gesù, a rivolgerti a Gesù avendo piena rivelazione di chi Lui è e dire: Re Gesù, io ti chiedo di intervenire, Re Gesù, io ti chiedo di avere autorità su questa situazione. Ti assicuro che le cose cambieranno. Il centurione, lo leggiamo, dice: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito, perché anch'io sono uomo sottoposto ad altri e ho sotto di me dei soldati e dico a uno va, catena di comando, ed egli va, a un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa. Gesù, udito questo, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. Sapete perché io ci invito a prendere ad esempio e a modello il centurione? Perché è Gesù stesso che rimane meravigliato e lo propone come un esempio ai suoi discepoli e alle persone che sono attorno a lui, dicendo: io finora non ho mai visto un uomo che ha questa fede, io finora non ho incontrato un uomo che ha compreso così bene la mia autorità e la statura della mia autorità nella vita e nelle circostanze. E lo elogia, e noi dobbiamo prendere esempio da questo centurione, vivere nella consapevolezza del regno di Dio. Questo ti invito a fare. La mia preghiera stasera è che tu possa cominciare a vivere più pienamente nella consapevolezza del regno di Dio, che tu possa crescere nella comprensione dell'autorità del Re Cristo Gesù, e che in tutto questo tu possa cominciare a invitare l'autorità di Cristo Gesù nelle tue circostanze, nelle tue situazioni, a stabilire il regno nella tua casa, a stabilire il regno nel tuo matrimonio, a stabilire il regno nelle cose che non sono in ordine. Perché sapete una cosa? Dovunque c'è il male, dovunque c'è oppressione da parte del nemico, dovunque c'è manipolazione e bugia da parte del diavolo, dovunque c'è infermità, dovunque c'è disordine, dovunque ci sono cose che non danno gloria a Dio, lì non è stabilito il regno di Dio. E Gesù ci invita a stabilire il regno di Dio riconoscendo Lui come autorità. Stasera è una scelta che noi facciamo: riconoscere Gesù Re nelle nostre vite. Forse hai smesso di credere che Dio può, forse hai smesso di credere nella dimensione dell'autorità di Gesù, forse hai ridimensionato l'autorità di Gesù alle circostanze che hai vissuto finora. Non farlo, non farlo, perché le circostanze non devono avere il diritto nella tua vita di definire la statura dell'autorità del tuo Re, ma è il tuo Re e la statura della sua autorità che deve definire e cambiare le circostanze e le situazioni che tu attraversi. Non c'è malattia, come è stato detto stasera, che possa reggere l'autorità di Cristo Gesù, che ha portato ogni malattia, dal cancro terminale alla paralisi, come abbiamo letto, a situazione in fin di vita su quella croce, perché Lui è morto per le nostre lividure. Non c'è depressione, dipendenza, manipolazione, oppressione da parte del diavolo che possa reggere il nome di Cristo Gesù, perché Lui è in autorità, e quando Lui dice via, il diavolo fugge. Ed è tempo che noi come Chiesa, credendo in questo, chiediamo a Gesù di dire via, via al male, via all'infermità, via all'oppressione, via alle dipendenze, via ai compromessi, via all'intervento del diavolo, via al suo rovinarci la vita, rovinare matrimoni, distruggere famiglie, continuare a tenerti in una condizione che non è secondo la volontà di Dio. Questo noi preghiamo quando preghiamo venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, anche in terra come è fatta in cielo. Perché sapete una cosa? In cielo, in questo momento, non c'è malattia. In cielo, in questo momento, non c'è un briciolo dell'intervento di Satana, perché lui non ha spazio nel regno dei cieli, e Dio vuole che la sua volontà sia adempiuta in terra come adempiuta in cielo. Io voglio darti la speranza che c'è nel regno di Dio, io voglio darti la fede che devi esercitare nel regno di Dio, io voglio invitarti ad essere un combattente, un centurione del regno di Dio, ad avere la fede di quest'uomo. Io amo quest'uomo perché è un uomo che ha capito chi Gesù era, è andato da lui e ha permesso che il regno di Dio si stabilisse nella sua casa. Noi comprendiamo che questo centurione è stato salvato, non ha ottenuto solo la guarigione del suo servo, è stato salvato perché Gesù che dice, ci sono persone che credono di essere salvate e non siederanno nel regno dei cieli con Abramo, Isacco e Giacobbe. Ma vi dico, uomini come questo centurione, che hanno fede in me, riconoscono la mia autorità, saranno presenti e si siederanno al tavolo con Abramo, Isacco e Giacobbe, perché hanno riposto la loro fiducia in me. In chi stai riponendo la tua fiducia? Perché Gesù sta per tornare e stabilire definitivamente il suo regno. Noi oggi abbiamo la possibilità di assaporare quello che è il regno di Dio, ma un giorno Dio verrà, punirà e porterà giudizio il diavolo, i suoi angeli e tutto il male, e dividerà coloro che hanno creduto in lui, hanno creduto nella sua autorità, si sono sottomessi alla sua autorità e sono rientrati nel regno di Dio qui su questa terra, da coloro che non hanno creduto, da coloro che hanno giudicato, da coloro che hanno assecondato la volontà del nemico, a coloro che hanno continuato a vivere nel regno delle tenebre. Dove ti trovi oggi? In Colossesi noi leggiamo che in Cristo Gesù noi abbiamo il privilegio di essere trasportati dal regno delle tenebre al regno della luce del nostro Figlio, ed è questo il regno di Dio. Tu sei parte del regno di Dio. Gesù ti chiama a far parte del regno di Dio. Sapete un'altra cosa che Gesù dice su questo regno? Che è un regno che cresce, che è un regno che avanza, che è un regno che si spande in tutta la terra. E sapete come cresce il regno di Dio? Cresce esattamente come cresce e si espande ogni altro regno. Combattimento dopo combattimento. Lotta dopo lotta. Il centurione ha riconosciuto l'autorità, è andato all'autorità, ha chiesto l'intervento dell'autorità del re Gesù, e il regno è avanzato, ha strappato dalle grinfie di Satana altri uomini, altre persone, ed è così che il regno di Dio cresce nella tua vita, nella tua famiglia, combattimento dopo combattimento. Ad ogni malattia, ad ogni intervento del maligno, ad ogni oppressione, ad ogni peccato, ad ogni dipendenza, nel tuo prendere a modello il centurione, comincia a conquistare, a vincere e a vedere il regno di Dio avanzare. E avanza non solo nella tua vita, modellando te, facendoti crescere alla statura di un soldato, di un comandante, ma cresce nella tua famiglia, cresce nel tuo vicinato, cresce tra i colleghi di lavoro, cresce nel paese tuo. Noi vogliamo vedere in questa nazione il regno di Dio che avanza, e questo avanzerà combattimento dopo combattimento. Per questo il combattimento che tu stai affrontando oggi nella tua vita non è secondario, non è qualcosa che Dio e Gesù vede con superficialità, perché ne va di mezzo la gloria sua e l'avanzamento del suo regno. E lui ti chiama alle armi, lui ti chiama ad essere un combattente, e tu puoi oggi decidere di combattere. Sii un centurione, scegli oggi di andare da Gesù, scegli oggi di scomodarlo, Vedete, il centurione avrebbe potuto tranquillamente rimanere a casa e sperare nell'intervento degli dèi. Lui era un pagano, ma ha saputo di Gesù, ha riconosciuto l'autorità di Gesù e si è scomodato lui, uscendo dalle sue circostanze per andare incontro al re che era presente e poteva cambiare la sua vita, e ha fatto una richiesta. Gesù ci chiama ad essere delle persone che si scomodano e che gli vanno incontro e che imparano a pregare, che imparano a inginocchiarsi, che imparano a riconoscere l'autorità del re e a pregare con delle parole specifiche. La nostra preghiera deve essere modellata da quello che è l'esempio del centurione. La preghiera del centurione non è stata una preghiera meccanica, religiosa, fatta con apatia, è stata una preghiera fatta con fede, in piena convinzione dell'autorità della persona con la quale aveva a che fare, il re Gesù. E la storia finisce, con questo voglio concludere, con queste parole. Versetto 13. Gesù disse al centurione: va e ti sia fatto come hai creduto. Va e ti sia fatto come tu hai creduto. Va e ti sia fatto esattamente come tu hai creduto. La fede muove il braccio di Dio. La fede ci porta a muovere l'azione di Dio. E quando ho letto queste parole, ho pensato per me stesso a Gesù che dice a me: va, va Mirko, e ti sia fatto come hai creduto. E in me è nata un'angoscia. Un'angoscia a dire: Signore, non sto credendo abbastanza. Se ora mi viene fatto come ho creduto, non ottengo niente. È importante che io comincio a credere per cose maggiori, è importante che io comincio a osare per cose più grandi, perché come credo, così ottengo, e nella misura della mia fede, il tuo braccio, la tua mano si muove. Stasera tu puoi tornare a casa con le parole di Gesù rivolte a te, che ti dice: va e ti sia fatto come hai creduto. Nel posto di lavoro, nella circostanza lavorativa che non si è sbloccata, in famiglia, nel matrimonio, nelle relazioni, va e ti sia fatto come hai creduto, nella malattia che stai affrontando, nelle infermità, nella sofferenza, in qualsiasi circostanza dove non vedi la volontà di Dio appieno. Gesù ti dice: va e ti sia fatto come hai creduto. Che responsabilità, vero? Il Signore stasera ci invita a credere di più, a credere che Lui può, con una sola parola, cambiare, modificare. Io spero che con queste mie parole sto accendendo in te un fuoco di fede, nel credere, nell'osare, perché ci sono grandi cose davanti a te. È davanti una vita meravigliosa, dove Dio ti vuole far essere un centurione che conquista, un centurione che vede miracoli, un centurione che vede situazioni cambiate, circostanze modificate, miracolosamente, non perché tu sei bravo, non perché tu lo sai fare, non perché tu hai preso autorità e ti sei fatto forte da te stesso, ma perché hai cominciato a credere nell'autorità alla quale sei sottomesso. Io vedo vite cambiate, io vedo destini che si sbloccano, io vedo infermità guarite, io vedo circostanze modificate, modellate da Dio, plasmate da Lui. Io vedo cose straordinarie nella nostra Chiesa davanti a noi. Io lo vedo, io lo sento, io lo percepisco, che quello che Dio vuole fare è il suo cuore, è Lui che dice: io verrò e ti guarirò e lo guarirò. Io vengo in questa casa, io vengo in questa chiesa, io vengo in questa nazione, io vengo in questa regione, io vengo e vengo per fare miracoli, io vengo per fare cose straordinarie, io vengo per servirmi di te per grandi cose che portano il mio nome. E Gesù sta aspettando persone che credono, persone che credono, che fanno propria l'arma della preghiera. Vogliamo alzarci in piedi. Stasera abbiamo l'occasione meravigliosa di partecipare alla cena del Signore, che ci ricorda quello che Gesù ha fatto, il suo gesto più alto di servizio nei confronti di ciascuno di noi. Lui ha dato la sua vita, Lui l'ha sacrificata, Lui si è lasciato torturare e ammazzare, e lo ha fatto per salvare me e te dalla condanna del peccato. Tu sei libero da ogni condanna, tu sei libero dalla sporcizia del peccato. Il diavolo non ti può più accusare per i tuoi passati, peccati passati, per i tuoi peccati presenti e anche per quelli futuri. Se tu sei in Cristo, ogni cosa è perdonata in virtù del sangue che Lui ha versato. Non perché tu sei migliorato, ma perché Lui ti ha servito dando la sua vita per te. E stasera, nel partecipare alla cena, possiamo vivere un tempo di intimità e di preghiera, dove in fede chiediamo che il suo intervento sia totale e che Lui possa stabilire con autorità il suo regno in ogni circostanza. Se tu lo credi con me questa sera, ti chiedo di alzare le tue mani. Vogliamo arrenderci alla presenza di Dio. Gesù, siamo qui per dirti che ti riconosciamo quale autorità che tu sei, autorità massima su ogni cosa. Tu sei il Re, Gesù, e noi siamo tuoi sudditi. Tu sei il Re, Gesù, e noi rispondiamo alla tua autorità, ai tuoi comandi, a quelli che sono i tuoi ordini. Tu stabilisci il tuo regno in mezzo a noi. E io voglio pregarti per tutti i miei fratelli, tutte le mie sorelle in questo luogo, con le mani alzate, arrese a te, affinché tu possa stabilire il tuo regno nelle nostre vite, che tu possa dire quella parola che ha efficacia di guarire malattie, di liberare dall'oppressione del maligno, di sbloccare situazioni, aprire nuove opportunità lavorative, sbloccare situazioni economiche e liberare dall'oppressione del maligno. Gesù, noi riconosciamo che il diavolo viene per rubare, ammazzare e distruggere, e noi siamo stanchi di questa sua azione nelle nostre vite, e ti preghiamo: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà nelle nostre vite. Noi ti diamo diritto e autorità di agire, e chiediamo che tu possa dire una sola parola per sbloccare le nostre vite e farci vivere il miracoloso al quale tu ci chiami. Perdona la nostra mancanza di fede, perdona il nostro non essere uguali al centurione, e aiutaci a partire stasera ad essere dei combattenti, dei soldati in prima fila che conquistano, che combattono, che avanzano e lasciano il tuo regno avanzare attraverso l'autorità che riconoscono in te. Noi, Padre, chiediamo questa sera che possiamo essere rivestiti di un'autorità che non è più nostra. Io prego che in questo momento tu possa spogliare le nostre vite dalle convinzioni che abbiamo di farcela da soli. Padre, io prego che in questo momento tu possa permettere a noi di perdere la nostra vita, perché tu dici che coloro che perderanno la loro vita la guadagneranno in te, Signore. E noi vogliamo in questo momento arrendere la nostra vita, arrendere il nostro futuro, arrendere le nostre scelte, arrendere i combattimenti che ci sono davanti, e chiedere a te il tuo intervento affinché noi possiamo muoverci, parlare e agire attraverso lo Spirito Santo, del quale tu ci vuoi riempire costantemente. Chiedo a te, Spirito Santo, questa sera di riempire noi, tuoi soldati, tuoi guerrieri, perché vogliamo vedere il tuo regno avanzare nelle nostre famiglie, Vogliamo vedere altre anime strappate dal nemico. Vogliamo vedere la tua luce irradiare i nostri posti di lavoro, le nostre scuole, gli ambienti che frequentiamo. Noi vogliamo essere rivestiti di un'autorità che ci permette di pregare per i malati e vederli guarire, di intercedere, di imporre le mani affinché persone siano liberate dall'oppressione del maligno e vederle trasformate da te. Gesù, tu l'hai fatto con le nostre vite. Noi siamo testimonianza di come tu cambi il destino delle vite e noi preghiamo affinché attraverso di noi altre persone siano raggiunte e trasformate. Stasera, Gesù, noi onoriamo il tuo sacrificio, ricordandoci che tutto questo ci è concesso, ci è permesso, perché tu, quale re, hai permesso che dei soldati romani e dei religiosi giudei ti trascinassero su quella croce, ti ammazzassero e vivessero tutto questo come una vittoria. Ti ringraziamo, Gesù, perché stasera abbiamo la possibilità di celebrare la vera vittoria, il fatto che tu dopo 3 giorni sei risorto, hai fatto pubblico spettacolo dell'opera del diavolo, hai trionfato sulla potenza del nemico e noi oggi siamo liberi, guariti, noi oggi siamo perdonati, noi siamo rinnovati. Gesù, tutto questo è stato permesso grazie al tuo sangue versato per noi e noi questa sera lo vogliamo onorare in questo tempo, come famiglia, come chiesa, ringraziandoti per il tuo sangue versato, per il tuo corpo martoriato per la nostra salvezza. A te la gloria e l'onore, Gesù. Amen. Amen. Veniamo avanti, partecipiamo alla cena, manteniamoci in un'attitudine di preghiera, lottiamo stasera per le vittorie che Dio ha per noi, per ciascuno di noi. Forza, Chiesa.